Anche oggi sono mancate le notizie di nuovi lutti e questa è una strage continua. Questa è una settimana di mobilitazione speciale, però la raccolta firme era già iniziata durante l'estate e proseguirà anche nei prossimi mesi, perché il nostro obiettivo ovviamente è raccogliere le 50.000 firme necessarie a questa nostra proposta di legge che stiamo portando in avanti insieme alla rete ISIL e anche insieme ad altre realtà politiche e sociali del nostro paese. E questa è una proposta di iniziativa di legge popolare che ha come obiettivo quella di appunto dire basta all'impunità per chi mette a rischio la vita di lavoratrice e lavoratore in nome del profitto, perché si fa un gran parlare, ormai tutti passano parlando in queste ore della questione delle morte sul lavoro, però si continua a parlare di mancanza di cultura della sicurezza. Qui la cosa che manca non è la cultura della sicurezza, quello che abbiamo di fronte è una sete insaziabile di profitto che comporta il fatto che chi viene mandato a lavorare viene mandato senza quelle misure di sicurezza necessarie per mettere, diciamo, la propria salute in salvo. È una roba che nessuno ci invidia, la condizione del nostro paese. Noi con questa proposta di legge, che ovviamente si scontra con una politica e con un Parlamento per quello che è, ha come obiettivo quello di incrementare ovviamente le pene per chi si macchia, come appunto molte aziende, di mancate misure di sicurezza, violazione delle norme, anomalie nella fornitura di dispositivi di protezione individuale e altre questioni che riguardano tecnicamente il documento di valutazione dei rischi e tutta una serie di questioni che ovviamente oggi non vengono comprese nelle attuali leggi che riguardano la salute e sicurezza. Oltre a questa raccolta di firme, che proseguirà, vi ricordo, anche nelle prossime settimane e mesi, si tratta anche di una campagna di mobilitazione. In questa settimana qua abbiamo programmato scioperi in diverse industrie a Bologna e fuori Bologna, come anche in altre parti, diciamo, del paese, e si tratta proprio di mettere al centro la questione salute e sicurezza come momento di organizzazione di consapevolezza tra lavoratori e lavoratrici, e anche insieme a questo tema quello del salario minimo. Infatti stiamo raccogliendo le firme sia su questa legge per inasprire le pene per gli omicidi sul lavoro, sia sulla questione del salario minimo. Quindi potremmo dire che per quanto riguarda da un lato la sicurezza, dall'altro salario minimo, si tratta di una battaglia per la dignità del lavoro. Si tratta di una battaglia per i diritti e la dignità del lavoro. Come dicevano anche i nostri nonni, si lavora per vivere e sicuramente il salario ci deve consentire una vita dignitosa e soprattutto una vita. Quindi basta omicidi, basta precarietà, basta salari da fame. Dove trovare i luoghi e gli orari in cui allestirete, state allestendo i banchetti? Domani saremo presenti all'università in piazza Scaravigli, sempre orario 11:30-15, poi giovedì saremo presenti davanti alla Toyota e davanti al comune di Bologna in Liber Paradisus. Poi venerdì, per concludere, diciamo, questa settimana di lancio territoriale di questa iniziativa, saremo presenti al circolo Giuseppe Dossa che sta in via San Felice.